Radio 24 Reportage. Europa, allarme lavoro, di Sergio Nava. Buongiorno da Bruxelles. Oggi ci troviamo qui nella capitale belga, nonché capitale d'Europa, per raccontarvi una battaglia il cui esito si rivelerà cruciale soprattutto per le regioni italiane, in particolare quelle del Mezzogiorno. Parliamo della battaglia per la prossima politica di coesione e fondi strutturali comunitari. Una trentina di miliardi all'incirca di fondi europei che l'Unione dovrebbe far confluire nella penisola nell'arco di 7 anni, dal 2014 al 2020. Soldi che si traducono in strade, infrastrutture, progetti per l'occupazione o per l'ambiente, solo per fare qualche esempio. Soldi molto utili in tempi di profonda crisi economica, ma che l'Italia non ha sempre speso bene, o addirittura non ha speso affatto nel corso degli ultimi 30 anni. Il paragone sull'utilizzo con Spagna e Polonia, per fare qualche esempio in positivo, è impietoso. Questi soldi potrebbero ridursi nello scenario peggiore. Oggi vi spiegheremo quale sarà il campo di battaglia della prossima politica di coesione, battaglia che si combatterà nei prossimi mesi. Per farlo siamo venuti a indagare nel corso degli Open Days 2012 delle regioni d'Europa che abbiamo seguito a Bruxelles, giornate che hanno definito le strategie nella guerra sui fondi comunitari. A Radio 24 il commissario europeo alla politica regionale Johannes Hahn rivendica, per cominciare, gli aggiustamenti fatti in materia di politica regionale nella proposta intavolata dalla Commissione e sfodera un apprezzamento per la politica introdotta dal ministro italiano Fabrizio Barca nella gestione dei fondi. Abbiamo chiaramente affermato che non vogliamo vedere alcun taglio alla politica regionale nel prossimo settennato, poiché abbiamo fatto una proposta equilibrata, discussa a lungo, e non ci sono motivi per modificarla, dice Hahn. Sull'Italia, afferma il commissario, penso che la decisione del governo di concentrare la gestione dei fondi regionali, soprattutto al sud, in un piano di azione per la coesione sia una buona scelta. Se guardiamo i dati, molte di queste regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, hanno difficoltà ad assorbire i soldi. Dall'altra parte, invece, ci sono ministeri, come quello dell'istruzione, che hanno dimostrato di essere capaci di spendere il denaro dei fondi strutturali. Per questo la decisione di Barca di gestire a livello centrale una parte dei fondi di coesione è buona e darà presto risultati. Torneremo a breve a parlare della gestione italiana dei fondi strutturali, proprio col ministro Barca. Ora però cerchiamo di capire qual è la posta in gioco e quali sono i nodi da sciogliere in vista del round negoziale sui fondi strutturali di fine anno. Un round inserito, ricordiamolo, nel negoziato più generale sul prossimo bilancio comunitario, per il quale si annunciano scintille. Sentiamo Gianluca Spinacci del Comitato delle Regioni. Il negoziato in corso è fondamentale. Stiamo parlando di fissare le priorità di investimento per i prossimi 7 anni, 140 miliardi di euro per tutta l'Europa, ciascun anno per i prossimi 7 anni. Quali sono i punti nodali del negoziato? Cioè, se dovessimo tracciare il terreno di gioco o di battaglia del negoziato? Ci sono alcune linee fondamentali che riguardano il tasso massimo di intervento dei fondi strutturali, quindi le politiche regionali. Un secondo dato è il regime d'aiuto per le regioni. In particolar modo la proposta attualmente sul tavolo dalla Commissione europea prevede delle regioni meno sviluppate e quindi in fase di convergenza, delle regioni in transizione che stanno quindi trasformando la loro economia ma non sono ancora arrivate a una fase di sviluppo avanzato con un PIL pro capite fra il 75 e il 90% della media europea, e le regioni più sviluppate, in Italia corrisponde appunto al centro-nord, in linea di massima, con un PIL pro capite sopra il 90%. Il dibattito riguarda in particolar modo le regioni in transizione, si tratta di una proposta nuova, di una nuova categoria, e alcuni stati che contribuiscono maggiormente al bilancio dell'Unione Europea sono contrari all'introduzione di questa nuova categoria. Questo è il quadro generale, però venendo all'Italia, quali sono gli interessi sia a livello di sistema paese ma anche di regioni su cui si sta giocando la partita? Uno dei punti su cui l'Italia sta cercando di ottenere una maggiore flessibilità è la cosiddetta macro condizionalità economica, cioè il fatto di evitare che si blocchi l'erogazione dei fondi a regioni, città e anche Stato nazionale qualora non venga rispettato il patto di stabilità. Vorrei anche segnalare che in parallelo al negoziato qui a Bruxelles è fondamentale che già tutti gli attori, in particolar modo le regioni, comincino la loro pianificazione sul territorio, considerando che in linea di massima il negoziato si concluderà nel 2013 e la programmazione dovrebbe iniziare nel 2014. Sappiamo che nel 2014 ci sono delle elezioni amministrative, nel 2015 ci sono le importanti elezioni regionali, quindi è importante che queste scadenze elettorali non congelino il processo di programmazione. Gli investimenti devono partire il prima possibile in questa fase di difficoltà economica e anche di coesione sociale. Gianluca Spinacci lancia l'avvertimento: attenzione in prospettiva a non far intersecare pericolosamente la programmazione dei fondi strutturali con le campagne elettorali. Già, perché di errori in passato ne abbiamo commessi parecchi e secondo gli esperti della Commissione europea, fino a pochi mesi fa abbiamo ancora una volta dato, come sistema paese, scarsa dimostrazione di lungimiranza. Prendiamo i fondi strutturali dell'attuale programmazione 2007-2013, quasi 29 miliardi sul tavolo per l'Italia. Volete sapere quanti ne abbiamo spesi finora? Poco più di 7, intorno al 25%. In Campania e Sicilia la percentuale scende addirittura al 14%. Le regioni centro-settentrionali, più sviluppate e per questo classificate nell'obiettivo competitività e occupazione, fanno un po' meglio, col 35% dei fondi spesi. Anche qui però siamo sotto la media europea di ben 10 punti e restano solo 3 anni per spendere i fondi in azioni di sviluppo dei territori regionali. Anche per questo il ministro per la coesione territoriale Barca ha avocato a Roma la gestione diretta di 6 miliardi, con una cabina di regia nazionale che fornirà linee guida precise sugli indirizzi di spesa: istruzione, occupazione, infrastruttura, agenda digitale e welfare. Una mossa molto apprezzata a Bruxelles, come ci ha raccontato, l'avete ascoltato, lo stesso commissario europeo Hahn. L'Europa da anni chiede alle regioni italiane di concentrare le risorse su obiettivi precisi per rendere i fondi europei più efficaci, richiesta spesso colpevolmente ignorata. A Bruxelles ammettono a denti stretti che è evidente come l'Italia sia in difficoltà, come su parte dei programmi operativi non siano stati raggiunti i risultati attesi, soprattutto sulla questione dello sviluppo economico. Ma confidano nei cambiamenti gestionali introdotti dal governo Monti e soprattutto nell'incredibile e storica capacità di recupero al photo finish delle nostre regioni, con forti accelerazioni di spesa all'ultimo minuto. Intanto a Bruxelles prosegue la battaglia per salvaguardare le risorse dei fondi strutturali. Mercedes Bresso, vicepresidente del Comitato delle Regioni, ha ottenuto nel corso degli Open Days l'approvazione di una risoluzione nella quale si chiede un bilancio comunitario complessivo pari all'1,14% del PIL europeo e dove si lancia l'allarme sui possibili tagli pari a oltre 5 miliardi in cui rischia di incorrere la politica regionale. Abbiamo incontrato Mercedes Bresso subito dopo l'approvazione della risoluzione. I rischi sono molti, nel senso che potrebbe esserci sicuramente una riduzione della complessiva politica di coesione, in particolare di quella quota delle regioni in transizione, che è una quota nuova e che probabilmente sparirebbe, e quelle della competitività, che sono tutte le regioni del centro-nord, dal Lazio in su. Non dimentichiamo che queste sono proprio le regioni su cui in questo momento la crisi sta colpendo molto il settore produttivo, perché sono le regioni in perdita di competitività rispetto al resto d'Europa e del mondo, quindi sarebbe molto grave. Ne abbiamo parlato prima, all'interno della battaglia sulla programmazione dei fondi strutturali si gioca un'altra partita, che tocca da vicino l'Italia: l'introduzione di una nuova categoria di regioni beneficiarie dei fondi strutturali a metà tra quelle meno sviluppate e quelle più ricche. Si chiamerebbero regioni di transizione e includerebbero i territori con un PIL compreso tra il 75 e il 90% della media comunitaria. Questo progetto, proposto dalla Commissione europea, è osteggiato da alcuni Paesi membri, tra cui l'Italia. Anche per questo 20 presidenti regionali, tra cui 4 italiani, sono venuti a Bruxelles per sostenere la nuova categoria. Per la penisola c'erano i presidenti di Molise, Basilicata, Abruzzo e Sardegna. Al governatore sardo Ugo Cappellacci abbiamo chiesto il perché della protesta. Cappellacci attacca l'atteggiamento del governo. È osteggiato purtroppo anche dal governo italiano, quindi la prima battaglia la dobbiamo condurre in casa. Rappresentiamo 51 regioni d'Europa che rappresentano 72 milioni di abitanti, una fetta importantissima dell'Europa. Se non venisse introdotta questa categoria, quali sarebbero le perdite nel prossimo bilancio di coesione europeo? Ma io posso parlare delle cifre della Sardegna, che danno un'idea di quello che è lo stato attuale dell'arte. Noi nello stato attuale, di fatto, nella nostra situazione fesenina, abbiamo risorse relative all'intero quinquennio di programmazione una montagna di risorse pro capite di circa 420 euro. Con la transizione alla nuova condizione andremo a circa 65 euro, quindi con una perdita straordinaria. Mantenere le regioni in transizione ci consentirebbe di stare intorno ai 400 euro. E per un quadro generale abbiamo fatto il punto sulla strategia italiana in merito al prossimo pacchetto di fondi strutturali con il ministro della coesione territoriale Fabrizio Barca, venuto a Bruxelles per presentare il nuovo portale opencoesione.gov.it, il primo in Europa a mettere online, in modo trasparente, tutti i progetti cofinanziati dai fondi comunitari. Barca risponde anche alla protesta delle quattro regioni italiane di transizione. La linea rossa dell'Italia è un triangolo che ha al vertice un obiettivo preciso, che è quello di ridurre il contributo netto che l'Italia dà all'Europa. Paghiamo troppo, decisamente, e ai due vertici base di questo triangolo ci sono i due modi con cui pagare di meno: migliorare le nostre entrate per la coesione, migliorare le nostre entrate con la PAC. Le entrate della coesione si migliorano modificando i parametri e dando più peso al tasso di disoccupazione altissimo nel sud Italia. In questo momento c'è anche una polemica con le cosiddette future regioni di transizione che vi dicono abbiamo il maggior ostacolo nel nostro governo. Come intendete risolvere il tema o il problema delle regioni di transizione? Noi consideriamo il problema già risolto. Noi riteniamo che sia giusto che le regioni che si trovano, come dire, a cavallo della soglia fissata dall'Unione Europea possano avere un regime particolare che riduce, come dire, la bruschezza del passaggio da un regime all'altro. Riteniamo però che a pagare e a dare queste risorse a queste quattro regioni convenga l'Italia, che sia l'Italia stessa, perché altrimenti l'Italia, se lo farà l'Europa, si troverà a pagare molto di più per le regioni in transizione degli altri paesi di quanto non riceverà per le proprie. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.